C'è il 747, una scheda del 747 con i finali all'interno della radio. Guarda, così sgancio dall'interruttore dove c'era l'eco. Ecco qua, così è sganciato. Molto sceso di da te, così facciamo la comparazione. Allora, da me vai, adesso sei sganciato e sei Santiago 6. Quando agganci sei 9.5. Va bene, va bene. Ah, quel lavoro, piano casa. Ehi, piano casa, già lo sai. Guarda qua, così agganciato, capito? Dove c'era la scheda Echo, che tu c'hai il Galaxy, lo sai, dove c'è la scheda Echo, alla parte lato, che a me non me ne ha fottuto della scheda Echo, che io non ho entrato una cagata. Torna quella lì, è tenuto lo stesso interruttore dove c'è scritto off Echo, ok? Quello alimenta il circuito stampato dello stadio finale e porta la radio da 5 a 100 watt pieni. Va bene, va bene. Per un attimo c'avevi tipo un ronzio sotto però, Là, adesso l'ho sentito. Adesso non so se c'è qualcosa di acceso lì vicino, però quando è sganciato non c'era, come è agganciato c'era questo ronzio. Si conferma. Oh, c'è anche Franco di Sosso, eh. E si conferma, sì, là è così, stavo ascoltando in cuffia. Perché ho acceso nuovamente gli alimentatori, perché sennò non posso avere l'820H acceso, capito? Castovane lo dovrete là, l'ho di nuovo spento. E allora ti fa rientro quello magari. Ok, là, vediamo, Franco di Sorso, riprenditela. Ehi, scappa. Ehi, vabbè, lascia. Probabilmente è qualcosa, perché c'è anche un bel QRM, c'è anche, però voi l'ascoltate più forte di me come segnale e si sente di più se c'è ronzio e cose così. Boh, per me è regolare. Comunque Claudio, io lo sto alimentando con 13,8 50 ampere. Va bene, ottimo per la truppa. Cioè devo tenerlo un alimentatore acceso, Massimiliano, se no non posso accendere le V e le U, 920 e tutto il tuo. Adesso troverò una soluzione, vediamo un po' se mettere un toroide nel cavo di alimentazione della spina della corrente o se devo spostare l'alimentatore, lo sposto, ma a me quello non mi interessa, a me interessa vada bene il Galaxy, quindi il Galaxy sembra che stia andando bene, va bene, il lavoro è fatto bene. Ehi, sappiamo che ha fatto bene il lavoro, andiamo a casa. Quindi ne dà 110 allora di battere. Guarda, sono T250, sul parlato va da 90 a 100, mentre se fischio li supera i 100. Piano casa è 110%, Sì, 110%, vero Massimiliano? Mi si capa la risa a me, è un paggiudori, amico, già pensi, un paggiudori. Sarà pure dei 3 minuti, no, io c'ho problema, già lo sai. Pagando, sempre pagando, già lo sai. Ma propagazione c'è? Non lo so, boh, se non avessi sentito mia sorella parlare, avanti. A sentirla io vuol dire che è forte. C'è qualcuno, ora, boh, non lo so guardare. Vabbè, dai, facciamo girare. Comunque la radio è a posto, vai. L'unico problema è che devo trovare una soluzione per poter spostare questi alimentatori. Li avevo messi in basso, adesso devo trovare una soluzione, se devo andare all'armadio. Prova l'autoruide, se riesci a schermarlo un po'. Doppio rum c'è? Sì, ma adesso metto il toruide, adesso le metto il toruide. Comunque c'è propagazione, mi arrivano Santiago 5 a me. Qui sono 0, però li sento di un po' di radio. Che roba è? Me lo senti? Sì, già lo sento, perché mi sono collegato al cavo del mio vicino qua, capito? Che c'ha due metralicci. Guarda, adesso che ho messo il toroide, si sente qualcosa? Niente senti, vedi, funziona il toroide, no? Io non sento niente adesso. Non senti che ho cambiato radio, vedi, ho messo il toroide. Ma che cosa hai messo? Il toroide K? Allora, già avuto, basta trovarne una, attendi l'altra, ecco. Che spariscono tutti i problemi. Risolto il problema. Allora, vero Massimiliano? Certo che sì. C'è l'alimentatore che crea problemi, quello che è interno. Perfetto, spegni quella radio è a posto, funziona, perfetto. perfettamente. Come vi accendi l'altro? Ecco qua. Adesso sono col 430, se vuoi passo col 140, non so. Anche io ho messo il torrone sopra, ma da chi mi ascolti bene? Sì, sì, ma che torrone è? Di Tonara? Di Arizzo, eh. No, mi piace, ancora è troppo dolce. Questo lo fa Arangino, che uno che lo conosce, quindi è roba buona. Allora, va bene. E beh, Mascini, ma c'è sempre questo rumore o no? No, claro, adesso è andato via, là, anch'io ho acceso. Minchia, come quanto sali con questo qua? Non è possibile, cazzo. Ma io sono a passare, cazzo, 9:10, 9:30 passa qua. No, qui era da segnare 3 con 6 positivi, guarda, con picchi positivi. È passato, no, mi pare 9:20, 9:30, buono, no, no, non fatete per guardare. Controllalo allora, là, giusto così per guardare, là. Sì, 9:27. 0,5. No, no, 0,4, là. Ho messo anch'io il toroide, là. Tu pure il toroide, la mia l'hai messo. E allora? Allora, allora. Cazzoni a mettere il toroide, almeno non hai rientri di RF, capito? Va bene. Avanti, sorso, sorso. Non è che appoggiano un toroide, appoggiano un vagone in più, fra. Appoggiano, agganciate un vagone in più. No, ma è micidiale questa cosa, è un missile da combattimento. Oh, fra, mi senti tu, dai? Per poco non ti sento. Allora ammasso, ho alzo un'altra cola, un'altra marcetta. Tu sei qua, sempre. Fare quello che vuoi. Tanto, la radio è sempre, ti ascolto sempre bene. Ma tu sei dietro a casa, sempre. Già va bene, va. Cazzo, se va bene. Tu, pardon. Da bussare. Non è mia, a che tu vuoi intendere me? E cosa di lui a te, Carzoffel? Vai a bocchi di... Oh, claro, a te come aumenta qualcosina, sì. Da 9:10 a 9:30. Copre, Claudio, mi copre. Claudio? Ehi, ma non mi intendi? No, mi ha parlato Franco, la sera. Aspetta, cambio radio, passo con 140. Oh, doppio rum, riprendi, California. Vediamo, prova qua come arrivi. Guarda, gli sto a vedere un attimino, là, guarda un po'. È uguale, là. Quasi 9:30 qua, sì. Non so qual è il più preciso, ma quasi 9:30, col 4:30 invece sì 9:30. Va bene, là, da Franco sono 9:27, a Puglia. Da Franco di Sorso sarò 9:10, 9, non so. 9:10 nel Galax, poi non lo so nell'altro quanto mi arrivi. Sicuramente di più. Va bene, sì, è andato via il rumore, claro, te l'ho detto prima, vedi che ho cambiato subito il radio. Sì, boh, non so, sicuramente è sempre quel disturbo là, cosa vuoi dire? Boh, non lo so, non lo so. Oh, fra, così cambia, così ho sganciato. Sì, è sempre forte, però adesso i picchi arrivano 7, dai. Però è sempre forte la radio. Va bene, ok. Sei a minimo così. Sì, a. Così sono radio, là. Bene, bene, bene. Su che radio è montato quelle modifiche? Questo è una Serove, e c'è un 747 attaccato. Ah, tu un mostro, questa roba, no? L'hai mai misurati quanti sono? Angini ne ha 3-4, dicetti. Sì, già l'ho misurato. Allora, così sono radio con, io sto andando con 0,5, neanche un watt. C'ho il Dive all'803, l'801, scusa, HP3, l'ago si ferma a fondo scala, quindi sono, cambio scala, aspetta. 40 watt di picco. Adesso, e quando agganci? Quando agganci devi aggiungere altri 2. Veri? No, di più, altri 2, 6 e 0,0. Allora, impressionante. Poi rimane buona anche la radio, caspita, no, migliora e basta in tutto. Kappa. Avanti, Claudio. Ehi, stavo abbassando la radio. No, una bestia quell'amplificatore, fra. Guarda, ti posso garantire, io l'ho usato, capito? Guarda quello e ti posso garantire che è un signor amplificatore. Non ce n'è. Tiene bene la potenza, l'ingresso è un 24 volt intanto, quindi è una Piazza Gubba. Non è un giocattolo, capito mi hai, non è un giocattolo. Ma Roberto Quadrato che fine ha fatto, Roberto? Tu hai trovato il telefono, io non ho neanche sentito. E anche Gianni, sono spariti tutti e due. Non so se c'è anche cosa, Giovanni di Patamona, boh. Ah boh, io non sento più nessuno. Ma io ho rilanciato anche a Gianni lo più Roma, a California, boh, ma lui già mando Galari. Ci hanno fatto una ruota a tre. Sicuramente sono da qualche altra parte. Via Franco pompandomi. No, ho mettato solo il pomello del gas. E io come ti arrivo invece, Massimiliano, così agganciato? No, è quasi 20, sì. E così? Liscio? No. E quindi qualche così in aumenta, dai. Sì, vabbè, io la voglia. Ma già ci ascoltiamo tutti qua a Sassari, anche senza niente. Sì, no, poi quando c'è la radio forte, anche se in basso, c'è da fare. Riesci a passare, a superire. Ma non ce n'è bisogno di attaccare qua, siamo a un tiro di schioppo. Ma infatti, è giusto giusto per giugarmi, ogni tanto a fine un bottone, non è altro problema. Infatti, più che quello, infatti, avrà già attaccato, già Franco, un pende. Anche per fargli andare un po' per scaldare, un po' di togliere un po' di umidità dalle ossa, mi. Allora, esiste fra poco come sta guardando il rinco via. Domani provo a agganciare, a scaldare quel debucchietto 31 a vedere se va. Mirafiori, cos'è? Un Mirafiori, ho detto a giro, a testa. Allora, quando l'altro giorno ho collegato la Guyana francese, che non sapevo mai che ne era, ho guardato su internet, praticamente più a sud del Venezuela. Ma lì a quel canale 12 così, un bilaterale. Ero sui canali alti, dai. Oltre il... credo sia il 12, oltre il 12 ero, adesso non mi ricordo se è il 18, boh. Questo qua va bene, caspita, ho fatto chiamata e mi ha risposto. Fra, ma siccome io sono migliorante su questo campo, no? Ma che nominativo bisogna dare quando entri lì, niente? Beh, loro chiedono, io neanche io ne ho, loro chiedono una sigla, non so, tipo QRZ, boh, è un naggio, e quindi gli ho dato solo il mio nome, non ho scambiato niente, mi interessava solo sapere se arrivavo e basta, Ah ecco, perché siccome ogni tanto capita che ne sento qualcuno che chiama da qua e da una specie di sigla, non so cosa sia, però. Beh, puoi essere, vabbè, IS0, vabbè, quella è... ma IS0, tra me, la 165 che è la sigla della Sardegna, e poi c'è Alfa Tango, se sei iscritto all'Alfa Tango, ma io non sono iscritto neanche all'Alfa Tango. No, se vuoi un fango io cosa faccio, boh. IS0, ovviamente IS0 non sono di questa sigla qua, IS0 sono altre cose. Oh Claudio, tu ne sai qualcosa che bisogna dare qualche sigla quando parli su queste cose qua? Sì, ma sei iscritto all'Alfa Tango, le associazioni te lo mandano loro al nominativo. Ah ok, invece se non sei iscritto non devi dare niente, così è. Se non sei iscritto ci ando io, dimmi che canale è, dico sono IS0 là là. No, le bande amatoriali no, sul canale 12. Quando laterale sai, lì si fanno dei collegamenti, punti sposti, altri canali, 14, 15, sempre in USB, sui canali più alti però là, di qua. Sì, ce lo so dopo, ce lo so, a volte sento qualcuno che parla di quelli di CB, non lo so, però c'hanno la sigla, capito? Sono iscritti all'associazione e l'associazione gli ha dato una sigla e usano quella sigla. Ma è quello, non avevo mai capito cosa serviva questa sigla, che danno, capito? E la sigla sono le coordinate per poter poi scambiare tutte le QSL, c'è un programma da seguire, tutte le cose, capito? È come il vecchio Alfa Tango che eravamo iscritti da ragazzini a queste associazioni, ma alla fine non serve a nulla, io ci ho fatto collegamenti, entro, Claudio da Sassari, tu chi sei? Giovanni Napioli, perfetto, ciao Giovanni Napioli. Sì, volevo capire quello, ho capito. Ti ripeto, ogni tanto sento qualcuno che chiama e dà una sigla, capito? Perché c'è il canale 55, ma sono tutti abusivi, capito? La legge è quella, per tutti, no, senza indecisione di nessuno, per tutti, dal canale 1 al canale 40, quindi sono tutti furibondi, sono tutti abusivi e sono tutti pirati. Come una frutta mai dell'Alfa Tango, dell'Alfa Beta e dell'Alfa Charlie, tutto abusivo, cioè. Quindi ognuno fa di chi ci vuole biasi e basta. E poi ti danno anche, non so, il codice che identifica la nazione, per esempio la Spagna credo sia 34, la Sardegna è 165, tutte queste cose qua che identificano le varie regioni e nazioni, capito? Vabbè, io invece sono fedele in culo e è un altro tipo di sigla. Vabbè, tanto la Francia non mi ricordo che sigla abbia, bro. Chi? Io? Massimiliano, non lo so, Massimiliano c'ha Caterpillar, tu cosa vai, bra? Quanto era l'impianto tuyo, VCM? No, oh, io entro, io l'altro giorno sono entrato, ho parlato con uno di Siviglia e mi ha chiesto la sigla, gli ho detto Franco Attila, boom, e ha cominciato a parlare. Allora, io Andretti, sono Claudio Acquera di Giorno. C'era davvero Acquera di Giorno, veramente. È morto, poverino. Sono sempre tutti abusivi, la di chi passano in Kiwi va in Mambassa, pure in Kiwi, capito? Perché lo statuto nostro è dal canale 1 al canale 40, che ne dicano e facciano, poi rispetto a ognuno fa di suoi bezzi, me la futa sempre, però tutti abusivi ciò. No, io ero sul canale 15 ero, però in USB. E come commessa? Che vuole la sigla? Ha giocato io sigla, non ero. Io mi chiamo Franco Attila. E lì ha cominciato a parlare. Uno l'altro giorno mi ha dato l'indirizzo Facebook, praticamente ci abbiamo scambiato, diciamo, la QSL con Facebook. Invece se ti avevano mandato la sorella, non era meglio. E dove sta la mano? Allora, se vanno la fotografia, ma ti sono mandato a me che trovi i baffi. Eccomi. E lo vedi? In bagno. Ah, mia, a proposito, un fax che è arrivato. Una QSL. Qua che c'è sotto, lo senti? Propaganda c'è. Ammazzende, ma arrivano 9:10 qua, cazzo, io aumentate, se non mi copre. A te ti copre qua, da me ti copre. E anche a te qua, perché sei sotto il 9, capito? Ma Gianni, Franco lo stesso è al limite. Gianni e Massimiliano riescono a passare. Vabbè, dai, guarda, non può, dai, non c'è problema. Sta attento, non mi bruciare un palino. Allora, bisogna fare così per non coprirmi. Bravo, vedi che anche tu sai fare le manovre, falle. Se lo sai fare, fallo. Io non posso aumentare niente, solo 100 watt e basta. Vedi, io invece ascolto tutti, questa qua arriva a meno di zero, però lo sento appena appena di radio. Ma tu c'è l'antenna già attenuata. Io ce l'ho già, come dice, schermata dai palazzi. C'è anche un po' di propagazione del 45. Oh, che aspetta, interessante. E quindi? No, leggera, leggera. Ma 45 metri? No, il canale 45. Ah, infatti, insomma, attorno ai 45 metri ci sono. Non è brunissimo, non pesce una gatti più, non è 45 metri. Io non è fatto poco, ma in bassa. Un radioamatore di provincia di Piacenza l'hanno fatto 6.000 euro di multa, ritirata la licenza della patente, e sequestrata le radio, fatto il processo. Gli hanno dato 2 anni con la condizionale, fortunatamente, ma la multa l'ha pagata. Chissà dove ce l'ho messo, io avevo, anzi era Diana, il trasverter. Ma questo è il radioamatore, vai tutte le bande radioamatoriali a disposizione, di grande fallità a 6.650, ma di cosa il gatto si va vedendo? Pirata proprio. E lì sono i 45 metri, poi sono gli 85 metri e sono sopra praticamente, sopra i 3.800, 4.000, capito? E sono tutti radioamatori, cazzo, ma dico io, cioè, ti hai preso la patente per fare che cosa? Per fare il pirata? Allora chi ti hai dato la patente? Io ho fatto un dipolo, me l'aveva consigliato, le misure me le avevate coso, Romeo, quel radioamatore di Alghero, se lo conosci, Riccardo, vai. Oh, ho fatto questa V invertita, ma era una bomba, segnaloni a fondo scala, allora, roba allucinante, guarda. E ne uno da 55 metri di antenna da piazzare, fiero. vigilare. Maggio da Reno, comprato il balo, ti mando la foto, ma ci mi dà 70 euro, è arrivato la volta, 70 euro di balo, 9 a 1, ma è un bicchiere in vetro, è una cosa allucinante, 70 euro ragazzi. Dobbiamo costruire il cavo, c'ho già tutto, non c'ho tempo, adesso la mattina scendo giù il capanno, la volta lo facciamo, 50, quasi 60 metri lungo. Sì, la voglia che va bene, ma dobbiamo finire. Dai, se mi date 10 minuti mi servono, vi ascolto, ma devo farmi un lavoretto qua, quindi mi servono le mani, là. Ok, ci sentiamo dopo, rimango in ascolto. Ma signoria, se vuoi vengo io a fartelo. Come mi posso nulla io. Se la volete, vicino impegno le mani, impegno le mie. Va bene, là. No, sono a crucifido, devo andare a crucifirmi. Va bene, dai. Ok, allora lo impegno le mani. Avanti, Gianni. Ehi, io la verità sono andato e mi sono bevuto anche un po' di latte fresco. E vola con le asciutte. No, io no. Io no, anzi, adesso mollo 2 minuti e vado ad attaccare la caldaia, perché la temperatura sta scendendo un bel su, e quindi attacco un paio d'ore la caldaia. Là. Riprendi il sorso. Ehi, scappa. No, già, io invece sono sceso giù e mi ho bevuto una birra al posto del latte. Vabbè. Ma la birra fa venire la cirrosi, il latte no? Ehi, basta non farti a pezzi. E chi cirrosi bene se ne piglia una ogni tanto. Oh fra, quando è che Arimani, no, in altra Arimani era con Augusto. No, Arimani. A me il latte fresco piace. Cappa, anche a me piace. Augusto, l'ho visto, stavo passando in piazza qua alla stazione e l'ho visto insieme a un altro amico, l'ho visto. Era una parecchio che lo vedevo adesso. E poi prima ci abbiamo preso un caffè la mattina e poi ci abbiamo bevuto una birra a quel bar che c'è, non la stazione, di fronte verso sinistra, stiamo uscendo la stazione, dove vicino alla gelateria di Vico. Là. Qua eri tu a Sorso. Sì, ha fatto un po' di controlleria lì agli scambi, abbiamo messo un po' di olio nelle ganasce, nei movimenti del lago, dello scambio. Lì c'è lo scambio, la rotonda c'è lì, che gira, no? No, ma quella ormai non si usa più, lì giravano la locomotiva, quella a vapore che andava solo in un senso, capito? Sì, mi ricordo, perché l'hanno colorata, quando c'ero io avevano colorata quella. Sì, lì giravano il senso di ritornare indietro, ce ne sono parecchie, ce l'abbiamo anche qui a Sassari, in Piazzale, dove ce ne sono Alghiero, c'è Alghiero, nelle varie stazioni c'era sempre. Sì, perché la motrice quella lì andava, quella a vapore andava tutta di un verso solo e basta, e la dovevi girare, invece non è come te la macchina, no, ti fai retromarcia e passi. Ne è passata di acqua sotto i ponti e la giravano a mano, c'erano due leve mi sembra da inserire, una volta che la locomotiva da sopra veniva sganciata dalle carrozze, no? Andava lì da sola, le carrozze rimanevano in prima linea, la giravano, sganciavano degli apparecchi per tenere ferma la rotaia, quindi diventava indipendente questa rotatoria, questa girevole, e poi la facevi girare e via, riagganciava il binario e andava via nel secondo binario, andava avanti e poi tornava di nuovo a retromarcia, cioè a retromarcia, sganciavano e i vagoni li portavano a agganciare dopo l'inversione. Dai. Sì, aspettiamo. Oh già, quando venivano, se andava il treno a vapore da Sassari a Sorso, c'erano i pompieri sempre dietro che mettevano fuoco. A te ricordi fra? Perché ci mettevano di tutto dentro, carbone, travesti, di tutto, si puliva dentro. E quindi quando partivano i lapilli, anche se ci mettevano una specie di frangifiamma, una specie di rete, però qualcosa partiva, quindi d'estate ci voleva il carrobotte appresso. E su, le risate ci facevamo, quando non sappiamo che farava un treno, va fatto a ricendi lo semmo. Avanti Gianni. Ma non c'è più quella carrozza a vapore che faceva i giri prima, fra, che faceva i giri, faceva giri panoramici, non so. Sì, c'è il trenino turistico, adesso sta funzionando da Tempio fino all'Uras, perché tutto l'armamento è tutto abbandonato, da Sassari fino a Nusby è tutto abbandonato. Se non mettono soldi e danno in mano qualche ditta per sistemare l'armamento, non ci può più passare. Un sacco di frane ci sono, traverse in legno da cambiare, rotaie consumate. Però non c'è più la locomotiva a vapore, viene collegata a un locomotore, diciamo, di, non dico nuovo, è un diesel elettrico. A volte attaccano anche la carrozza, quella del Re Vittorio Emanuele, una vecchia carrozza, si chiama la Bauchero, però in genere sono carrozze vecchie normali. Quella Bauchero adesso è ferma a Tempio, c'è un museo da... ho capito, perché prima c'era, mi ricordo. Vabbè, io mi ricordo il treno che portava Valghero, lo chiamavamo il treno del Far West, quello c'è di legno, gatto era fermo. Quello ha terminato, diciamo, sulla linea di sorso, le ultime corse le ha fatte lì. Vabbè, per i sussichi va bene. Guarda che da sorso lo sa la gente che sale, saliva e ne sale ancora. Tu figurati che la mattina per gli studenti facevano il bici perché non ci stavano in un convoglio. Quindi dopo 10 minuti partiva un altro convoglio. Cavolo, cancella chi pur manca, da questa gente va. Eppure il treno è da sorso, è molto frequentato. Adesso ci sono i treni nuovi, quindi ci sono più capienti, a volte mettono 4 piedi, quindi ci sta parecchia gente. Cappa. Tu il treno da Campesina sta pigliando. Io, veramente mi sembra l'ho preso da quando sono a sorso 2 o 3 volte solo e basta. Io per dire la metropolitana in superficie a Sassari non l'ho mai presa, mai in vita mia. C'è tanti anni e non l'ho ancora presa, non ho avuto il coso di salire a dire proviamo ad andare in metropolitana. Ecco, no, io guarda, ti dico una cosa, ho preso più il treno per andare a Sassari Olbia che qua a Sorso. Da Sorso è più vicino in macchina, e vabbè. E comunque, già servono sia l'uno che l'altro, sia quello gommato che quello su rotaie, servono tutti e due. Conta che in caso di problemi, neve, il treno è uno dei pochi mezzi, diciamo, che riesce a camminare. Ma non scivolano le ruote di ferro? C'è lo spattaneve davanti, prima è una cosa che montavano a parte, praticamente lo spattaneve si montava solo in casi eccezionali, però quando pattina butta un po' di sabbia a volte, aumenta l'attrito, però il peso che c'ha schiaccia tutto. Ho capito. Il treno ha sempre viaggiato anche con la neve. E in pullman non credo. Poi cosa c'è? Un periodo non riusciva a salire a parte di Tempio perché c'era l'invasione dei bruchi, cioè le rotaie erano piene di bruchi. Quando li schiacciava si creava quella poltiglia grassa e quindi il treno scivolava. Allora hanno inserito davanti, diciamo, delle appendici con delle scopette in fili d'acciaio, là. Praticamente che spolveravano prima del passaggio della ruota, toglievano i bruchi, hanno risolto. Invece il ghiaccio è più pericoloso, invece il ghiaccio se non butta sabbia non ce la fai a salire. Il ghiaccio. Se sono trampato io col ghiaccio, lì via Puligolo, una volta quando ha fatto tutta quella neve. Tutte le macchine c'erano di rendi, io ce l'ho fatta avvicinarmi al marciapiede, a bloccare la ruota attaccata al marciapiede in modo che non scendesse. Si staccavano le macchine lì dove c'è il bar di Chicco, non so se lo sai, via Puligolo. Lì le macchine parcheggiate senza nessuno detto si staccavano dal marciapiede, si sbattevano una con l'altra. Ui. Sono andato per bloccare una macchina perché stavo andando addosso alla mia e ti dico ti sposo e ti incatti laggiù e l'ho deviato. L'ho fatta scivolare, non l'ha colpita la macchina. Se scivola riesci un po' a manovrarla, Fatate un dettaglio che non abbia preso velocità verso di te, se no se sta andando piano riesci a governarla un po', a spostarla. È un po' Claudio, ci sei? Guarda, io quel giorno lì me l'ho vista brutto, ho visto una macchina che si batteva l'una con l'altra, senza esserci passeggero, guarda, si staccavano dal parcheggio e si curiano una con l'altra. No, staccati non ho mai visto, ma ti faceva il contrario, che si collassero a terra. No, una volta ero col fuoristrada, figurati, stavo facendo il togo, volevo salire a Olbia, sono arrivato lì al centro ecologico, la macchina stava andando con 4 ruote motrici, andava da Giura, ho fatto retromarcia e sono tornato a casa. Anche io una volta, sono arrivato fino a Graziella. era lì dove c'era la discesa, che si è girato questo camion, cazzo, si è messo in mezzo strada, non sapevo cosa fare. Ce l'ho fatta a scherzare a bloccarla prima, ma ce l'ha avuto la. Ho preso, ho fatto un retromarcia, mi gioco durata da lì, dammi la mozza a fasciarmi avanti. No, anch'io ho visto che quando acceleravo andava per conto suo, tutti e quattro le ruote giravano a vuoto, mi. Allora ho detto no, non è. Quindi ci vogliono gomme da neve o da ghiaccio, addirittura chiodate ci vogliono, quindi meglio evitare. E sono tornato a casa da bravo bambino, vai, avanti Fra. Ecco, e tu lo sapevi Fra perché avevano messo il treno con i sedili di legno qua a Sorso? No, non lo so, ma a Sorso è arrivato sempre un bel danno, i sedili quelli in plastica li fanno, anzi li facevano a pezzi, tutti tagliati a coltello, bruciati con l'accendino, pasticciati, guarda, ogni giorno. Ehi, a parte quello, non fanno i cotturi sedili in volo dalla vinetrina in una buccia? No, di tutto, staccavano le tendine e li buttavano fuori dalla finestrina, guarda, dannaggi proprio, non so perché. Infatti il capotreno un giorno mi ha detto, dice, a lavare poi con il legno, li buttiamo pulito, e ci ha messo nelle tracce. Purtroppo è così, adesso invece ci sono le telecamere, diciamo che i danni sono molto molto limitati, dai. Adesso li vedono chi lo fa, prima non c'era niente ed è per quello. Dalla rete Vaziani già, e un treno a Senna Sassari o Farendi. Niente, c'è un break. Il dottore si rifacevano i buchi, si strappavano la fodera dei sedili, insomma le vasine tutti di colore, rubavano quel martelletto per sfasciare il vecchio. Aspetta che forse c'è un break, avanti break. Ho capito che c'è il lupo grigio, ciao Franco da parte mia, qui arrivi sempre bassissimo, segnale 0, radio 1, 2, appena percettibile, sicuramente Gianni ti ascolta meglio, avanti già. No, io proprio non l'ascolto per niente, sento che sta parlando ma non si capisce cosa dice. Lupo Grillo, l'antenna ti devi mettere, l'antenna sul tetto, stiamo aspettando questa antenna sul tetto. Aiuto, datti da fare. Inizia a procurarti un bel palo e una buona antenna e poi ci sentiremo alla grande sicuramente, ok? Un abbraccio da parte nostra. Ciao. Adesso lo sentivo un po' meglio. Allora, riprendi Fra. Ciao Lupo Grigio. Capo, vai. Non lo sento per niente io, non lo sento. Oh ragazzi, io vi lascio e ci ascoltiamo le prossimine. Ciao Gianni, ciao Franco, Claudio e Massimiliano se è all'ascolto. Ci ascoltiamo tutte le prossimine. Guardati per me. Ciao Fra, ci sentiamo. Ciao Fra. Ciao Franco, alle prossime. E anche io mi sono un po' il tracco, gloria. Ormai ci siamo già parecchie ore. E io ho cambiato anche a parecchio, lo vedete, ma ho capito. No, tu arrivi bene qua. Ma sono accorto perché il segnale è più basso. Vabbè. La radio è buona. Sì, la radio va bene, sono travedetto. Già io per la radio dico sempre la verità. Il segnale si è abbassato un po', ma non va. Però la radio è buona. Questo è secondo me va, non ha potenza, dai. Se voglio gliel'aumento, ma non faccio così, non me ne ha fatti nulla, esce bene lo stesso. Ah, certo, dai così, se 9-10 quasi, dai, 9-5 abbondante, va bene già. Va bene. Forse non va bene, basta attaccare. Il mic è normale? No, il mic è amplificato, il proxy. No, io la verità non mi sono d'accordo, vabbè, non ci ho fatto caso, non ero attento. No, ma io già guardo i segnali, col Cobra già ne arriva 9.20, esce 9.5, vabbè, lo devi attaccare già, se ti sento lo devi attaccare, sono con 20 watt adesso. Che adesso le 8.30? 7.30. 7.35. Ah, allora è presto, mi sembrava le 8.30, perché se sono ora di buttare un gas. Oia. Ho dovuto cambiare le crocchette, Claudio, al cane, perché mi faceva la diarrea. Il mio, quante ne ho cambiato già. A me la dermatite sotto il muso le veniva, stava sempre grattandosi. Adesso solo crocchette al salmone, basta. Le pago però solo quelle. Mangio pollo, non gliene dare, me l'ha sconsigliato per te dare crocchette di pollo, niente. O mangio o pesce. Io li sto dando sempre salmone lo stesso adesso. E va va benissimo, non ne ha più di arresto. È sempre salmone. Il tonno no, il salmone va bene. Dici, come non avete veterinario? Al pesce, per i molossi la loro, il loro cibo è al pesce, poi se le vuoi fare un po' di pasta entro settimana, carboidrati con carne macinata, va più che bene, anche appena appena di formaggio grattugiato, va benissimo, però crocchette solo di pesce, perché le altre crocchette le fanno male. Io ho sempre il trainer, visto là. Ehi, non gli provo a dire dettrimaneri, adesso sto prendendo l'ebo, non me lo ricordo. Per aria le prende, comunque sono costose, vabbè non me ne fotti nulla, ce l'ho e lo devo tenere fino a quando rimane, quando non c'è più vi fa Gesù, vai bravo. Non so il gatto cosa mi sta dando Anna, crocchette, però anche a volte, cioè a volte il gatto secondo quello che gli diamo, a volte lui vorrebbe assaggiare quello che mangiamo noi, però gli fa sempre male, a volte gli dà un po' di carne, magari c'è l'aglio, a lui gli fa male, e gli fa diarrea anche a lui. Però anche adesso sta mangiando roba anche lui a base di pesce, Ho ripreso. Via, Massimiliano. Sì, è la cosa più sana. Non ho niente aglio, per il cane mio di Gianni è la morte l'aglio. Io quando le bollisco la pasta anche se c'è sale, niente sale, nulla, niente. Condimento o carne macinata, o un po' di prosciutto cotto, prosciutto crudo, capito, cose così, oppure le butto dentro una cimental e le raggiro, ma niente di che. Un attimo, Massimiliano. Sì, o magna cannonari. No, magna sempre, Edo. E si va a fare, perché ci mangia di posti di Massimiliano, che dov'è? No, a me non è che mi mosso i capelli, perché io, vabbè, adesso sono da tanto, però lo faccio sempre giocare quando mi frega. Certo già, ma ci vediamo quando la carbonata l'aspettava l'ascensore. Ma ci vediamo, sta arrivando. Si avvola, entrava l'ascensore. Come arrivava? Saltava sopra, Edo lo umilia a Rimarri, e lo yoga, Edo, lì si vuole, capito? Lì si vuole, non lo mollava un minuto. Anche quando sei venuto qua non è che ci hai giocato molto, a Carbonazzi ti eccitava, ragazzi. È vero, però mi sa che è diventato più modello lì, vero? Sì, qua se passi avanti al cancello parte, se è fuori parte e ti abbaia, perché oramai è più, non lo so, boh, forse ha capito quel territorio suo, non lo so. Mentre a Carbonazzi invece non abbiava mai. No, perché l'ultima volta che sono venuto me ne sono accorto, Cla. Ormai lui si è segnato tutto il suo territorio, capito? È come te se entri in casa sua, è giusto che sia così. Ma è rinato, poverino. È rinato veramente. E c'ha già 10 anni, guarda che fuori Italia è proprio un fuori Italia vero e proprio, perché massimo 8 anni, non ne fa 10 a novembre, ad agosto, quindi vabbè, avanti Fra. Ma anche tu hai i cani, Massimiliano? Ve ne so il cane, ovvio, sì c'ho il cane, comunque c'ho il pincher. Sì, ma mio, le dai due un pacchetto di più, sarà a posto. Il pincher è un Doberman in miniatura. Dentro casa si fa rispettare. Una volta questa tipa ce l'aveva in braccio, andava a toccarlo e ti musicava, poi lo prendevi tu in braccio, andava a toccarlo e musicava Edda. Guarda, quando ce l'ha in braccio o mia figlia o mia moglie, non fa allungarle la mano. Ma che strano, cioè andava a musicare pure la padrona, lui difendeva chiunque lo tenesse in braccio. Vabbè, però diciamo che sono cagnolini che non danno fastidio, non ingombrano, mangiano poco, dai. Da voi vai, tocca via la mia moglie, è una figliola. Io Massimiliano, quando c'era più Filippo, ci si prendeva un toy, quello ruggine. Cosa? Il toy, quello ruggine, tipo barboncino. Sì. È fenomenale, guarda, un cane eccezionale. A me lo puoi portare in macchina, in giro. Filippo è un coso, è un cavallo, ovunque lo metti sfascia tutto, dove si muove fa danno. Capito? Quello è agile, piccolino, Sta dentro, me la fotti nulla di abbaggiare, però almeno c'è un cane che ti godi. Lui è sempre addormentato, mangia, dorme, sta fuori al sole, gucato. È raro che passi qualcuno davanti al cancello e si alza e parte, capito? È un cane mandrone, però almeno ti divierti. No, no, è per quello, è l'ombra nostra, cioè ti segue da tutte le parti, è diverso, capito, non cane grande. Io prima quando ho la Largo Arlecchino dentro casa non lo puoi tenere, un cane a 70 kg, capito? Quindi sì, lo tieni fuori e quando vai fuori ci ti fa le coccole, ma da voi lo lasci libero, invece dentro casa te lo godi proprio il cane, capito? Cioè, ma poi il nostro non dà fastidio, è sempre quel gatto del divano. Quando lo chiami a dritta sai che fa fango e al volo dà o in braccio a me o in braccio a mia moglie. Ma infatti questo lo godi di più. Va bene, no, un cane che è bravo, però non lo puoi portare a nessuna parte. Un barboncino così, un toy, costa una maledizione, costa un bel soldi, però te lo puoi portare anche al mare, cioè ti sposti, capito? Lui no, lui è, a parte il fatto che alla caneggia subito soffre molto il caldo e quindi mai più morosci, basta così. L'esperienza me la sono fatta, vai già. Non so se sia una fake, io ho letto oggi su Facebook che c'è un bonus di 500 euro per chi ha il cane a casa. Vai già, è finita. Chissà che imbecille come te la posto su Facebook che mancava l'acqua, cazzo, sono andati di supermercato, hanno fatto man bacia, vista i rubinetti si stanno buttati. Già è vero quello. C'era uno speaker, era tutto chiuso, non ve l'hanno ampullare. Perché è un imbecille, lo sai che l'hanno denunciato per allarme, non so che cosa, se non mi ricordo. Comunque c'è uno nel codice penale, l'hanno denunciato, lo sai che lo puoi sapportare, si impara a rompere le balle. Quello mi pare che era un camionista che aveva detto che c'era lo sciopero degli autotreni, non so di quanti giorni, e poi l'avevano anche intervistato al televisore. Sì, l'hanno denunciato per procurato allarme, hai capito? No, proprio scritto che di fare rifornimento d'acqua perché i trasportatori hanno deciso di non trasportare l'acqua. Capito? C'è stato l'assalto 3 giorni ai supermercati, l'hanno distrutti, e poi non era vero, l'hanno denunciato per procurato allarme. È un troiaio qui su Facebook, lascia perdere, io già non ne ho, non me la fotti nulla. Avanti, fra. Oh, mi pare, non avevo ancora di chi c'era che ho comprato Anna, mio, cla. Ancora Anna? Quando vieni qua porta un po' di cartone. No, per vedere quanto ne ha preso, una piramide veniva in sala. Io lo stesso, io di acqua ne prendo anche 10, ce li ho in terrazzo. Insomma, ma di Bigliardo, ne aveva preso 6 cartoni Mario, 5 le avevo portati al mare l'aria, 5-6 le avevo comprati io, cazzo allucinante, io già l'ho consumata tutta qua l'acqua, già la usiamo un bel, capito? Però è stata una grande rottura di palle. Adesso, ormai si rifà lo solaio pure. Avanti, faccio via. Sì, quando senti una cosa del genere, la prima cosa che faccio è quella, acqua, farina, pasta asciutta, perché anche la pasta mia c'erano scaffali vuoti. Ma io ne avevo preso qualche giorno prima, io quando vado a prendere ne prendo 10 cartoni alla volta, moschetta da 2 litri, e poi noi in genere beviamo San Martino. Quella frizzante o quella poco frizzante? No, noi prendiamo la San Martino frizzante, claro, che è buonissima, però prendiamo anche l'acqua naturale, la naturale prendiamo la boschetta. Io quella la prendo a per farmi la menta, la uso per la menta, però bevo l'acqua naturale normalmente. Noi invece al contrario, cioè perlomeno io durante quando sto lavorando bevo sempre acqua normale, dai, naturale. Invece a casa così, a cena, quando sono a casa a pranzo, bevo la San Martino. Vabbè, non ne dico io dico birra. Che meglio. Adesso mi guarda, sono arrivato dal lavoro, prima di salire a farmi la doccia, abbiamo fatto due bei bicchieri di vino fresco, buono. Anch'io oggi a pranzo ho avuto un vino, poi sono andato a trovare mio cognato, un altro bicchiere di vino di un bel bovale fresco. Oh, io non so bevitore, Vittore, io bevo un bicchiere di Lambrusco perché è per lo frizzante, dico l'amabile. Ma anche io sono bevitore, ma cosa c'entra? Già, dopo una giornata di lavoro se ti bevi un bicchiere di vino, un bicchiere di birra, no, non devi essere un bevitore. No, non è quello, non è quello. Io sto dicendo per me, io sto dicendo che io non sono un bevitore, non sto parlando per voi, non per voi. Sto parlando per me che non sono un bevitore, bevo sì, un bicchiere di vino a pranzo, ma Lambrusco, prima bevevo quel vino di sotto, ma è troppo bizzarro. No, io neanche io sono un bevitore, ma si mangia pure a me che 5, 6, 10, 15 ampulli di birra andavano a testa. Meno male, sei bevitore. E ti offendi se ti dico bevitore, bobo? No, ho detto, non mi sono offeso, ma io sinceramente già, anche l'estate così, io gioco in terra dalle 4 e mezzo di manzano, quindi d'estate così o anche d'inverno, d'inverno mi piace più il vino, la verità, ma nel senso mi piace più il vino, bevi un bicchiere, due bicchieri di vino cenando, perché io il pranzo non ci sono mai a casa, capito? Però quando mi trovo il sabato, la domenica a casa, una birra me la bevo per la fresca, o la sera quando rientro dal lavoro mi siedo, mi bevo una birra fresca, capito? E poi cenando bevo acqua. No, la birra la bevo anche io, non è che ma la bevo molto gradatamente, mangiando la pizza, un bicchiere così, non è che sia, ti ripeto, non sono un grande bevitore, ma preferisco la birra del vino. Ma ci vedi, ti serve un frigovetrino a bar? Funzionante? Sì, al 100%, a portata l'aria al bar. Sì, già mi può servire. Ah, buono, minchia, l'ho acceso, ci ho messo l'acqua, adesso la santa fresca, vabbè, c'ho due motori, è bello, nuovo nuovo, l'ho messo nel Carvedio, però io c'ho anche l'altro, ne ho, c'ho un nuovo nel Carvedio, c'ho due nel Carvedio normali, uno dentro caccia, quello del Carvedio di quella stanza lì, lì mi carico l'acqua d'estate per essere sempre fresca, la birra, la ciata, qualcosa, insomma le bibite, capito? Però la vanno giù dopo, fate te l'aria, diamo a qualcuno, c'è chi lo lavo, te lo lavo che te ne regate in occhi. Ascolta, è come l'hai portato lì però, in macchina mia ci sta, tu? Che bocato, lo si è macchiato ci sta, col camioncino l'ha portato Mario. E vuoi te ne arrego in occhi? Se ti serve già ci arrangiamo, faccio prestare un furgone, qualcosa, già ne lo scendiamo. Ehi, quando sì, così sì, già va bene. In macchina che togliendo i sedili ne esce fuori, mi sa, no? Sì, esce fuori, ma è meglio, no? Noi l'abbiamo messo dritto, capito? È meglio non coricarlo. E fatelo riposare, quando lo porti, non attaccarlo subito, attaccalo l'indomani. Ma si può coricare, tra poi si attacca l'indomani. Sì, devi farlo riposare, eh. Allora non c'è problema, quando vuoi la portiamo, anche con col furgone di Roberto posso scendere. Il furgone ha, sei cassonato? Sì, il dobro, non siamo scesi l'altro giorno a portare sulle antenne a volte. Se ci sta, va bene, lo colichiamo e lo portiamo qua, poi se non attacco, quando lo portiamo lo attacco il domani, non è un problema quello. Poi bisogna che siamo in treno, vengo con Roberto qua, lo carichiamo e scendiamo, cos'è? Il telefono, io sto scendendo. Ah, parrocchio, va benissimo. E questo è lo sfruttimo, se mi dà, lo puoi mettere anche fuori, mi sottolinea la scala, lo attacchi e lo riempi di acqua, di tutto, almeno c'è tutta roba fresca. E se di birra lo riempio, di acqua lo riempio. Di birra, aranciata, di tutto, di buoni. Io faccio qualche televisore dentro, figurati. Non vi chiedo, ma è un televisore sempre mezzo alle balle. Anna, ne mettono anche a vedere, no, che prende umidità, che è nuovo nuovo, un 30, no cos'è, cos'è 30, quello piccolo che avevo qua in stanza, a carbonati ce l'avevo, che è tipo monitor il computer, sembra che sia la 22, 24, la 22 forse, quello di antemano. Ve lo metto per non prendere umidità e ti butto dentro lo frigo. E va tu bene, no, già sono grandi quelli. Mi sa che sono alti 2 metri quei frighi, no? Sì, 2 metri, bravo, 2 metri. C'è una bella vetrina, ma ermetica, c'è la molla, chiude da solo, bello, sì. No, peccato. sta male, ci rovina, forse non accenderlo. Aiutami, allontiamo a qualcuno o lo vuoi a scarpiera? Mi dici l'indivi? La cascarpiera non è male l'idea, però se funzionate un peccato. Peccato dal ballo, hanno preso un uovo, capito? Hanno preso un altro e quello l'ho portato qua a casa. Va bene, va bene, quando già ci mettiamo d'accordo. In un fine settimana, dicevi che stamattina sono a casa per dire, mi organizzo e te lo porto giù, capito? Una sera, adesso è tanto tu, esci presto, adesso non stai uscendo tardi, capito? Ti chiamo, come chiude Roberto, alle 5:30, lo carichiamo e te ne uscendo. Ehi, la perfetto, va bene. Allora, va bene. E Parigi di Seguigene, la Vigenna, avvisami prima, così busco un pezzo di tonno. Torra, no, vale d'oio. Dato già amici ti puoi far dare un pezzo di tonno da Massimiliano. Mi ha telefonato un giorno, il tonno ti piace, tu certo. Allora mi hanno dato un tonno, mi tenevo un pezzo. Cazzo, è arrivato a casa, ne ha portato mezzo tonno, sono stato 25 kg, ne ho fatto la pizzaiola, il barattolo bollito con l'olio, con le pennette, con le maggio rigarate, sono portato una ghetta ma niente di tonno già. Una bella tagliata di tonno. Chi marai? Adesso mi che c'hai il posto per farlo, fatto sulla piastra, già che è buono. Ah, davvero Massimo, allora ci sto, va, però non così grande, un pezzo, va, un pezzo piccolo, a parte a metà duro della coda, come quello l'altra volta. Lo porto tutto a franci e aglio, prezzemolo, peperoncino, se ho cuo un'altra graviglia. È un pezzettino, era grano, è che io lo usavo, era il pezzo della coda, non era grande grande. Sì, mi hai avvisato che senta a cugino per vedere come è messo. No, non era grande, lo mettete con chi? No, detto, ma scusa, perché non lo metti in frise? È un po' come frise che c'è la gola pure, usiamo un po' in frise. Stava a fare la strada. No, già era fresco, cosa? Ha detto dicendo che non l'ho congelato, ma nulla, niente, tutto fresco ci abbiamo. Sono stato una settimana mangiando tonno. Si è diventato tutto un lupo. Ci mi ha detto, quando vai a casa tocca con i miri, io ci ho toccato con i miri. Non bisogna abusarmene con questi pesci grandi perché accumulano molto mercurio durante la loro vita, siccome campano parecchi anni, capito? Ma io ce l'ho accampato poco. Io sono morto subito. Si è accumulato, non ne abbiamo dato tempo a accumulare mercurio, già l'ha già accumulato 2 mesi. E lo ce l'ha in grassi già, lo ce l'ha in grassi. Se tu l'ho mangiato bollito, a trance, a pitaiola, in tutti i mari ho fatto. Anche con le pennette. Allora è buona anche la piastra, fatto così, a fettine, sembra carne, la carne. Tanto non è bello rosso, bello carne. E io, vabbè. Io quando facevo il pesce in vendolo ultimamente, ne ho tagliato più di uno di tonno. Ma ce lo portava, invece ce lo portava fresco, appena pescato. Ma spariva subito, non durava nulla. Oh scusate, vi saluto. Ciao Claudio, ciao Gianni e Massimiliano. Dai, un abbraccio a tutti e tre, alle prossime. E prendi Cla. Ciao Fra, un abbraccio anche a te da parte di Ilaria e di Anna. Già sai a chi. Ok, alle prossime. Vai Massimiliano. Ciao Fra, ci sentiamo alle prossime, dai. Buona continuazione di serata. Gianni. Ciao Franco, ci sentiamo, dai, buona continuazione, buona carica quando la fai. Stavo dicendo che spariva, magari forse a 22-25 al chilo, spariva, a me che non si dice. Ehi, e costa un bel soldi, ma tu hai detto fresco ce lo portava in invece. E tu immaginati a Massimiliano, da Alghero, il parente suo appena pescato, Massimiliano appena pigliati, appena presi e torno a Iglia. Guarda, già, io il dopo pranzo sono sceso ad Alghero perché dovevo prendere altra cosa, mi ha chiamato mio cugino e ha detto io vieni in barca che devo dare una cosa. E uscendo dalla barca e non sono andato via, l'ho portato dritto la Claudia. Fresco che così. Ma invece lo stesso glielo portano fresco la mattina, lo scaricano e lo portano in magazzino, poi dal magazzino lo portano a noi, non è che sia che facciamo tutti i passaggi, capito? Invece è uno di quelli a Porto Torres che vende pesce fresco, perché ne vende un bel, quindi non ne ha mai, e alla fine della giornata va più un pesce. Infatti si rapporta lo pesce fresco con lo figlio di Maraghini. Lo so. Purtroppo, e fratello del figlio di Oreste era quello vero. Allora, Luca, lo sai cosa è successo, sì? Ha avuto un incidente di Porto San Nicola, un frontale. Ma perché? Tu lo sai, sì, che si è attaccato il braccio del semiazzo, lo sai, sì, perché la macchina era revisionata, c'era portato bene in fretta. Sì. No, non lo sapevo questo. Io conosco Elisabetta e Oreste bene, quindi conosco i genitori molto bene, ma lui non lo conoscevo. Via, siamo andati in altre via. La sera porto lo bacio in fresco, Giuseppe di Vieci. Ciu, attaccato mi tirai a Oreste. Fa la fine ricorda quando è morto Totti Scicchi. La morte ci viene infatti. Era vecchio quel camioncino, no? Nuova Cicco! Esso, mamma mia, l'uovo lo fanno adesso. Ha già fatto la denuncia, lo babbo, figurati. L'omicidio colposo. No. Attenzione, capo! Mi hanno dato un furgone perché c'era rotto l'altro, c'è proprio un panorama. E mi hanno detto usa il panorama perché era fermo, perché non, l'altro furgone non va. E ho preso il panorama, sono andato alla discarica a buttarci il cartone che c'avevo vuoto, stavo scendendo la montagna. Andato a frenare, che se non frenano il furgone. Ho preso e mi sono ammacciato. C'era un coso di chessa. Detto, venite a prendermi il furgone, io guarda, venite a prendermi il furgone. Ma veni qui almeno poi lo firmi. No, io non ne tocco. Attenzione, binario 10, K. Attaccato al capo tu. Che non si intende, ho girato quella cosa. Ascolta, quanto ce l'hai Mickey Ghi? A 4. No, mettilo appena meno di 4. Ora mi senti? Vedi, a Catturizio l'alimentatore si intendeva. Ah, hai visto cosa ha fatto Claudio Sparviero? Allora sì che si intende se trattando un gaffa. Vai Massimiliano. Ehi, ciao Anto, sì, per me però è troppo alto la radio. Ciao Anto, sarà andato distorto. Ecco, mettilo a 3 Anto. Guarda, vuoi vedere, adesso è a 3, com'è? Allora sei giù. Adesso va benissimo, anche lo devi abbassare. Io me ne sono accorto. Perché l'ho provato proprio con la mia radio, uguale alla tua. Me ne sono accorto, l'ho dovuto abbassare anch'io a 3, perché ho messo in posizione amplificazione 60, praticamente trattene il suo microfono senza amplificazione. Adesso si è amplificato, adesso si è un kenwoodiano. Cappa, vai a andare, dai che io vado a mangiare. Ce la risentiamo dopo, ok? Aspetta, tu, prima di andartene, prova a staccarti poco al microfono, a vedere se esci bene. Ah, perché mi senti male? No, secondo me sei troppo vicino. Se sono lontano un miglio, cosa troppo vicino. Adesso sei uscito bene. Vabbè, dai, buona carica quando l'ha fatto. No, è perché sta spingendo un bel. Non c'aveva amplificazione quel microfono, c'era il cavo di alimentazione interrotto, gliel'ho comprato nuovo, l'ho regalato. Vabbè, ricorda tanto di portare quell'altro che voglio recuperarlo, nel senso che si accorcia per vedere dove è rotto e poi si risalva al connettore, capito? Lì ce l'abbiamo di scorta. Ok, dai, non ti preoccupare, te lo porto domani mattina. Speriamo da mentammino, devo uscire un bel chizzo domani a Manzano. Mamma mia, che capo. Non ti preoccupare, quando ti ricordi, non è urgente Anto, urgente era quello lì, te l'ho portato subito, capito? Adesso usa quello, ce l'hai, è a posto, il microfono è a posto e usa quello lì. Adesso quando ti ricordi quel capo lo dobbiamo mettere a posto, che può sempre servire. Dai. Ciao, buona cena, buon tutto. Lascia l'amplificazione a 3 col processore inserito, ti amano una canonata. Vai Massimiliano. Ehi, a posizione, magari avrai l'ha imburrato a Fabedà, quindi magari ha si creato un poco. No, ma già va bene così, dai. Ok. Certo che sì, ci aveva il capo interrotto, lui non lo sapeva. Io quando l'ho portato qua pensavo fosse c'è quell'interruttore, e invece quando ho aperto il 60 mi sono accorto che dentro c'erano le batterie. Infatti mi sono incazzato, ho chiamato, ma io non ho fatto niente, che là, vabbè, comunque ho tolto le batterie e il microfono funzionava in posizione amplificata. Lo mettevo senza amplificazione e funzionava. Ho provato col tessere, dalla radio uscivano gli 8 voci ma non arrivavano al microfono. Il cavo interrotto, lo spiralato interrotto, cioè, capito? Lo spiralato interrotto funziona solo senza alimentare il microfono. E quindi lui stava uscendo così, capito? Nessuno gliel'ha voluto fare, costruirglielo, non si è rotto le palle, l'ho ordinato la maschera, che c'era altra roba che è arrivata. E allora gliel'ho ordinato, gliel'ho regalato io. Sono i siciliani marinesi, va bene, vai Gianni. Vabbè, Antonio già è contento, si è visto che è contento. Certo è contento, cos'è, io l'ho chiesto.